La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 131. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Procediamo ancora nell'esame degli articoli della nostra Costituzione in occasione dei 70 anni della sua entrata in vigore. Dopo l'articolo 127 passiamo all'articolo 131, perché gli articoli 128, 129 e 130 sono stati abrogati e quindi non sono più vigenti. L'articolo 131 contiene l'elenco delle regioni. Potrebbe sembrar strano trovare in Costituzione l'elenco delle regioni. Invece il punto importante è proprio questo. Serve una modifica costituzionale per creare una nuova regione, perché le regioni sono enti di livello costituzionale. Quindi, per modificare province e o comuni basta una legge ordinaria. Invece, per aggiungere o togliere una regione serve una legge costituzionale. Questo elenco delle regioni è stato modificato nel 1963. Infatti, l'unica regione creata durante la vita repubblicana è stata quella del Molise. Precedentemente, Abruzzo e Molise erano una regione unitaria che poi è stata scissa con la modifica costituzionale del 1963. Possiamo anche ricordare che le regioni sono state create dal Costituente. Infatti, l'assetto territoriale italiano nel modello dello Statuto Albertino era composto esclusivamente da province e comuni. Il Costituente pensò di dover dare maggiore amalgama al territorio nazionale, quindi cercando di unificare maggiormente i territori, ed ecco allora che inventò le regioni. Queste 20 regioni, prima 19 poi 20, di cui 5 speciali, in maniera da tenere i territori più uniti. È curioso vedere come il Costituente declini al plurale alcune regioni, come gli Abruzzi, proprio per far capire che erano più terre che venivano messe assieme. Oggi, passati 70 anni, abbiamo un ampio dibattito culturale sulla necessità che le regioni permangano e soprattutto sulla utilità di avere un sistema territoriale articolato in regioni, province e comuni. Questo è uno dei grandi temi che si è aperto in questi anni. Oggi all'Italia servono ancora 3 livelli territoriali di governo oppure bisognerebbe cambiare profondamente? Qui serve una riflessione seria e una eventuale modifica costituzionale.